oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione. Buongiorno a tutti. Willy, buongiorno, il nostro regista in console, nonché, come dire, colui che ogni tanto si introduce. Come mi definiresti? Sentiamo. Non lo so, un... Disturbatore. Disturbatore, sì, sì, sì, okay. Sì, mi piace, perché questa trasmissione ha bisogno di disturbatori, di te come dei nostri ascoltatori, quindi ricordiamo subito i numeri, sì, per disturbarci, okay, in allora, senso positivo, ovviamente. Cominciamo dal fisso? Sì, 051 34 64 58, il mobile. 333 180 94 94 per i vostri sms. Oggi si affronta un tema che già avevamo annunciato la settimana scorsa e su cui credo che ognuno a tutti i livelli e di tutte le età abbia qualcosa da dire o da raccontare, e ovvero l'amore. L'amore. Ciao Francesco, non ti avevo ancora presentato. Ciao. c'è anche lui, non ci ha lasciati, è qua con noi e non ci ha abbandonati in questo percorso di trasmissione. Ovviamente l'amore non in senso lato, ma l'amore in senso di perdita dell'amore, quando tutto ciò che succede quando qualcuno è rifiutato o qualcuno decide di rifiutare in un qualche modo, di chiudere una storia perché non ci sono più le condizioni e cose di questo tipo. Quindi ti do un primo là in generale, perché noi partiamo sempre in generale per poi addentrarci nella tematica. Che cosa significa questo, sia dal punto di vista di chi prende la decisione di chiudere una storia d'amore, sia da chi riceve la notizia, diciamo, suo malgrado? Sono due punti di vista diametralmente opposti. Solitamente il problema della fine di un amore è il problema di chi viene lasciato. Mentre per chi lascia potrebbe essere un momento di libertà. Sì, un festeggiamento quasi. Sì, quasi, quasi una un nuovo inizio. Quindi due punti di vista diametralmente opposti, no? Chi lascia e chi viene lasciato, chi ama ancora e chi non ama più. Io però, come dire, farei una provocazione. Ah, cominciamo pur subito con le provocazioni, va bene. La provocazione è questa. Si ha il diritto di non amare più qualcuno che ci ama? Urca, questo è difficile, io non ho la risposta sinceramente, e metterla in termini di diritto. Sì, di diritto, sai perché la metto in termini di diritto? Perché qualche volta c'è qualcuno che non è più amato e ama, e che sembra dire che quell'altro ha ancora il dovere di continuare ad amarlo. Ah, ecco. Dice, non mi puoi lasciare perché io ti amo. Dice, ma io non ti amo più. Dice, ma non importa, ti amo io. Tu mi devi amare perché io ti amo. Sembra, come dire, quasi dire questo... Il padre Dante quando dice amor che nulla amato amar perdona. Io però faccio fatica a metterla in termini di diritto, anche perché l'amore è un sentimento, o c'è o non c'è, o spunta o non spunta, o permane o non permane. Non è una cosa che si può comandare per legge, passami il termine. Cioè, dici che non abbiamo nessun potere sui nostri sentimenti? Per esempio, io non mi posso arrabbiare apposta e poi dopo un po' sono veramente arrabbiato? Sì, però quando non ti arrabbi apposta fai finta. Sì, ma poi però mi arrabbio davvero. A forza di essere arrabbiato per ti finta. Convinci, dici? A forza di essere arrabbiato per finta ti arrabbi davvero. Cioè, noi abbiamo un certo potere sui nostri sentimenti. È vero, però questa idea che, come dire, i sentimenti siano assolutamente incontrollabili è un'idea sbagliata. Cioè, in realtà noi abbiamo un grado di potere dei nostri sentimenti. Per esempio, possiamo educarli i nostri sentimenti, possiamo guidarli, possiamo attenuarli, possiamo dirigerli, possiamo spegnerli, possiamo accenderli. Ah, oggi troverai una molto polemica, perché invece io ho tutta un'altra, un'idea molto romantica dei sentimenti, romantica nel senso del romanticismo. Sì, sì, sì, no, ma c'è l'idea. E molti quindi hanno del l'idea, non controllo. Molti hanno l'idea che i sentimenti siano la parte di noi che noi non controlliamo. In realtà non è così del tutto. Un po' è vero, però non è del tutto così. Nel senso che noi abbiamo anche un governo, un possibile governo dei nostri sentimenti. Anzi, c'è chi dice che non c'è sentimento senza governo, cioè che chi lo libera, il sentimento, è perché l'ha liberato, non perché il sentimento è libero. Cioè, quindi tu vorresti dire che se io non amo più una persona perché questa mi ama, io dovrei controllare il mio sentimento perché rimanga lì per farlo o farla contenta? No, tu potresti, per esempio, trovare delle buone ragioni per continuare ad amare una persona o provarci, anche se non l'ami più, perché quella persona, per esempio, è l'unica al mondo che ti ama. Ops. Io andrei con uno stacco musicale che devo riflettere un attimo. Sono un po' in confusione e vorrei anche una mano dagli ascoltatori a questo punto. Stacco musicale. Sto andando veramente in difficoltà. Stacco musicale a tema. Lo proviamo. Vai, dai. Lo proviamo. E adesso andate via. Voglio restare solo con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me, me che fino a ieri credevo fossi un re. Perdere l'amore quando si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento li colora, rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore, perdere una donna e avere voglia di morire. Lasciami gridare, rinnegare. Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene. Perdere l'amore quando si fa sera, quando sopra il viso c'è una ruga che non c'era. Provi a ragionare, fai l'indifferente fino a che ti accorgi che non sei servito a niente. E vorresti urlare, soffocare il cielo, battere la testa mille volte contro il muro, respirare forte il suo cuscino, Che vergogna. Torniamo in diretta, va là che è meglio. Che vergogna. Voglio dire che ringrazio tanto William perché ci ha messo questo brano, pur sapendo tutti quanti noi, sì, sapendo tutti quanti noi quanto sia nel suo mood questo tipo però, di musica. Per amore si fa questo ed altro, vedi? Quindi, per amore si fa questo ed altro. Ci ha fatto una dichiarazione d'amore, quindi, Willy, sì, a, certo, a suo modo. Certo, di affetto. Ha colto, ha aperto il canale giusto. Sì. Io volevo rientrare dicendo questa cosa, che secondo me chiacchierare o parlare, seppur in maniera preparata, di questa realtà probabilmente è la più difficile delle nostre scelte, è la più difficile delle nostre puntate, perché questa veramente ha una realtà per ogni individuo diversa, secondo me. Prima Francesca faceva delle affermazioni, io ne facevo delle altre, se andiamo in redazione ci faranno altre affermazioni, se andiamo a chiedere a dei passanti faranno altre affermazioni strane oppure diverse o completamente opposte alla nostra. Poi certo ci possono essere momenti in cui questi sinusoidi, come ha citato prima Francesca, possono incrociarsi, ma in realtà diciamo che sovrapporli esattamente è molto difficile, per cui stiamo cercando di uniformare, tra virgolette, quello che per fortuna, aggiungo poi io, per fortuna, non si può uniformare. Ha infatti non ho nessuna intenzione di uniformare, sarò spietata per tutta la puntata. Credo. Volete uniformare, è la cosa più bella del mondo, che infatti ognuno ama a modo suo e dove non ci incaselleranno mai. Da un certo punto di vista è il modo personalissimo di amare, è l'espressione massima della nostra libertà. Io ti dico questo, ti mando una provocazione io. Amare lo stesso una persona anche se non la si ama più, o provare a sforzarsi a, come dicevi, a lavorare sul sentimento in modo da indirizzarlo in quella direzione, non è una forma di, come dire, accanimento terapeutico, mi verrebbe da dire? Sì, sì, lo è, però può essere un'altra cosa, può essere quello che dici tu. Può essere un modo di reprimersi, può essere un modo di farsi piacere una cosa che ti ripugna, può essere una cosa bruttissima, però può essere anche farsi ispirare l'amore dall'altro. Cioè, quante volte tu non hai amore in te ed è un altro che te lo ispira? Tu vai in giro senza amore, vuoto, ed è un altro che amandoti ti ispira l'amore, cioè ti... E tu apri la porta, tu ti chiedi: lo ospito o non lo ospito quest'amore che l'altro mi ispira e che magari non è mio? Che succederà se lo ospiti? Tu lo fai entrare l'amore e può darsi che l'amore, come dire, che tu fai ospiti in te, susciti un altro amore in te, che sono le ragioni per cui tante persone che prima non amavano poi imparano ad amare, imparano fra virgolette. Questo posso essere d'accordo. Sì, ma è questo che intendo dire, è questo che intendo dire. Non intendo, cioè non c'è solo la via, perché se tu fai la premessa che uno ha un sentimento e l'altro ne ha un altro e tu devi negare il tuo sentimento per far posto al sentimento dell'altro, questo è una violenza, no? Ma se tu non hai nessun sentimento, sei vuoto e l'altro ha un sentimento per te, tu potresti anche pensare di farlo entrare quel sentimento e farti ispirare da quel sentimento. E se quel sentimento ti ispira, cioè c'è un modo di amare che non è un modo di amare, come dire, noi siamo abituati a considerare il sentimento come a sorgente personale, autoctona. Sì. Il sentimento può sorgere anche da fuori. Assolutamente. Il nostro sentimento. Su questo concordo. No. Sì, ma sì. È un'affermazione forse che può essere fraintesa con quelle con cui si giustificavano certi matrimoni pur di uscire di casa tempo fa, e si diceva: ma sì, l'amore verrà. Certo, certo, ma quello però è una giustificazione tremenda. Io rabbrivido. Certo. L'amore verrà, certo, a me fa venire. Certo, l'amore verrà, però non bisogna più delle volte non arriva. È verissimo, è una delle cose più terribili delle società patriarcali. Sì, confermo. È una delle cose più terribili, l'amore verrà. Però bisogna notare che spesso era anche vero. Spesso era vero, che l'amore veniva, cioè quando era vero, quando non c'era già l'amore per un altro, ti facevano sposare uno che non amavi e ti dicevano l'amore verrà, questa è una tragedia terrificante, ma quando tu non amavi nessuno e ti facevano sposare un altro, l'amore poteva anche venire. Dopodiché, dopodiché poteva venire, sono d'accordo, come però per due motivi. Poteva venire perché spuntava appunto contagiati dall'amore dell'altra persona, oppure poteva venire per pacificarsi con la propria realtà anche. Cioè una sorta di ok, va, mi convinco che sono innamorata perché io ci devo vivere in questa situazione e cerco di viverci il meglio possibile. No, ma quello però è un compromesso opportunistico. Esatto. Ci sono situazioni, e a me mi risultano, delle situazioni di persone a me molto vicine che mi hanno detto io l'ho amato dopo quella certo, persona, l'ho amata dopo quella persona. Dopo tanto tempo è venuto fuori l'amore, perché per esempio ho constatato che quella persona me l'ha ispirato, perché era in grado di ispirare l'amore. Cioè tu, come dire, non è detto che tu incontri soltanto perché c'è una tradizione alle spalle, incontri una persona sbagliata che non sappia ispirarti l'amore. Però forse, come dire, proseguire su questa strada, prima di proseguire su questa strada, bisogna chiedersi un'altra cosa: che cos'è l'amore? È una bella domanda, infatti stavo che cos'è l'amore? Pensando. Perché noi ne stiamo parlando come se parlassimo di una di quelle cose che tutti sanno che cos'è, ma come diceva Sant'Agostino del tempo, io so cos'è il tempo, ma se qualcuno mi chiede di spiegarglielo non so più come fare. L'amore è precisamente una di queste cose qui, e molto spesso ognuno di noi ha una sua narrazione dell'amore. Certo. Quindi il problema qual è il punto? Il punto è che se noi volessimo rispondere alla domanda che cos'è l'amore in termini induttivi, cioè andando a vedere nella realtà empiricamente che cos'è l'amore, osservando la realtà, ci perderemmo, perché appunto ogni amore è diverso. Quindi dovremmo conoscerli tutti prima di poter dire, di fare una sintesi e dire l'amore è questa cosa qui. In realtà però c'è un modo un pochino più facile, più comodo, più fattibile per orientarsi in questo e tentare di rispondere a questa domanda, ed è quella mossa, come dire, che a un certo punto è stata fatta nella cultura umana, di fare, che consiste nel fare delle tipologie, no? Ci sono dei grandi tipi di amore, ci sono delle modalità di amare, no? Che si possono riassumere in formule. Per esempio, ama il prossimo tuo pensando a te stesso. È un modo di amare, cioè l'amore che tende a dominare oggi, cioè l'amore di chi prima ama se stesso e ama quello che gli consente di amarsi sempre di più. Quello è un tipo d'amore che noi possiamo osservare continuamente, no? Cioè un amore, come dire, quasi biologico, un amore che tende a soddisfare i propri bisogni, no? Per cui tu, il prototipo di questo tipo d'amore è il bambino che si attacca alla mamma, perché la mamma, poi quando scopre chi è la mamma, uno insomma fa le sue critiche, è quella persona, sì, lì fa le sue critiche, certo. Ma da bambino tu ti attacchi a quella persona perché e la ami profondamente, fondamentalmente appunto per questo, perché tu, quello è il modo migliore per pensare a te. Sì, anche perché è il modo migliore per amare te. È quella persona che ti assicura la sopravvivenza anche in un qualche modo. Certo, ma non solo. Non solo dal punto di vista della sopravvivenza, sì, di nutrimento, intendo. Sì, parlo anche emotiva. La sopravvivenza emotiva. Certo, Di esperienze esperienziale, insomma. Certo, quindi certo, intendevo quello. Certo, poi si cresce. Poi si cresce e non basta più quel tipo di amore. E allora, cioè, come dire, la formula cambia, no? Tu ti leghi a quelli che dentro di te ci stanno bene, con cui dentro di te non litighi. Te li porti dentro, li fai diventare parte di te, e infatti quando li incontri è come se li riconoscessi. Dice, quello voglio, quello è la persona. Sì, ma non basta non litigarci. L'amore è quando un messaggio, aspetta. È quando ti scuote proprio qualcosa che altro che non litigarci. Cioè quella persona lì ti fa perdere la testa, non ragioni più, fai in modo di pensare a qualcos'altro ma non ce la fai, pensi sempre a quella persona. Quello secondo me è l'inizio, poi non sono qui per dare delle spiegazioni, sto dando delle sensazioni personali, probabilmente quello è un tipo. No, ma quello è un altro amore. Scusa, certo. Ti porto un attimo indietro con questo messaggio, perché era un po' l'obiezione che ti facevo anch'io mentre andava Massimo Ranieri. Si gira pure il dito nella piaga. Sì, quando hai senza offesa per Massimo Ranieri. No, infatti. No, assolutamente. Ci ha scritto Edo e dice: non sono assolutamente d'accordo, non ci si può illudere che quella persona è l'unico che ti ami e perciò soffrire non amandolo. Nella terra ci potrebbe essere un'altra persona che capisce che l'amore, se non è ricambiato, controsenso da Edo, ah ok, ha detto, insomma ci potrebbe essere un'altra persona nel mondo, mica lo sai, non è che hai un valore assoluto, una statistica, per cui dici c'è solo quello, ma contento. Sì, ma purtroppo una delle tragedie dell'umanità è non saper aspettare i secoli che ci vogliono per scoprire se nell'universo c'è un altro che ti ama. No. Cioè, questo è il punto. Sono d'accordissimo, è così, però è difficilissimo aspettare quella che arrivi, scoprire che c'è un altro, perché tu devi considerare come ti senti quando sei vuoto, quando senti che nessuno al mondo ti ama, no? Quanto puoi reggere, quanti anni puoi reggere a vivere senza che al mondo nessuno ti ami? Si hanno poi delle due settimane, tre mesi, 8 anni, 20 anni, ma poi se c'è qualcuno che ti ama, anche se non lo ami, qualcosa muove, tu dici. Qualcosa ma, ti muove. Ma. No, a meno che appunto tu non sia una di quelle persone così romantiche, così, che preferiscono morire piuttosto che... piuttosto che rinunciare a un vero, al vero amore. Ci sono persone che pur di non rinunciare, per non rinunciare al vero amore, rischiano di morire. E così siamo arrivati a una conclusione importante alle 13:27 minuti. Io propongo stacco musicale che lancio intanto che chiacchieriamo per questa piccola pausa con la pubblicità. È Francesca, rimandiamo sì, a sì, ho già dei messaggi in arrivo, quindi dopo riapriamo con i messaggi. A fra poco. Ciao. forse l'amore. Chi va al vento, chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto. Alla maca gelata, chi ha perso il suo gazebo. Guaire la stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amore? Chi vive alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa. Chi sfoglia senza posa al saluto riverente del peruviano dondolante che chi nel capo allustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Ma s'appoggio pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'ammazzone straniera. Stringere per finta un'estranea cavaliera e il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di San Susì. Che cos'è l'amore? È la ramona che entra in campo, è come una vaiassa, colpo grosso te la muove e te la squassa. Ai tacchi alti il culo basso, la panza nuda e si dimena, scuote la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata. Ah, e permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re. Che cos'è l'amore? È un indirizzo sul comò di un posto d'oltremare che è lontano solo prima d'arrivare. Partita sei partita e mi trovo ricacciato. E che cos'è l'amor di Vinicio Capossela? Giuro che non ti faccio più richieste, Willy, per oggi. No, hai già dato, bravo, come dire, molto sono in questo senso. Bravo. E è il tema di oggi. E quindi ricordo, già ci stanno arrivando molti sms, ricordo appunto il numero 333 180 94 94, se invece volete intervenire con la vostra voce 051 34 64 58. Si parla d'amore, si parla di che cos'è l'amore, eravamo rimasti lì. E come amare, insomma, anche se ovviamente non c'è una ricetta uguale per tutti, però insomma stavamo ragionando su queste cose, sulle esperienze in merito. Allora ci ha scritto Ines che dice: sono una professionista del cuore infranto, sto imparando a rispettare il diritto dell'altro di provare ciò che sente senza farmi sopraffare dal mio infinito bisogno di amare e essere amata. Tento di amare senza aspettarmi nulla in cambio, com'è difficile. Questo mi sta permettendo di vedere l'amato per ciò che è e non per ciò che può darmi. Devo dire che mi piace anche di più. E mi sto anche accorgendo che la prima a non darmi l'amore che desidero, troppo spesso sono io. E quindi anche questo. Certo, mi sembra che questo, che Ines sottolinei un aspetto che caratterizza un altro tipo di amore. Amare senza aspettarsi niente in cambio. C'è un altro tipo di amore, c'è l'amore che chi ama pensando a se stesso, ama il prossimo tuo pensando a te stesso, c'è chi invece ama l'altro in quanto l'altro, senza aspettarsi nulla da lui. Cioè un amore altro, completamente diverso. Tu, per esempio, appunto, questo tipo d'amore è un tipo d'amore che è infelice quando non sei riamato. Ma è un amore possibile. Tu puoi continuare ad amare qualcuno che non ti ama senza voler nulla in cambio. Io tifo per quell'amore lì. Perché dici che è infelice? Uno potrebbe anche essere contento del sentimento in sé che prova. Sì, però il fatto di desidererà essere amato allo stesso modo. E se l'altro non lo ama allo stesso modo, ma per esempio pensa a se stesso e lo strumentalizza, sarà infelice. Ah sì, se viene strumentalizzato sì, non c'è dubbio. Vai Willy. Quando però passa quel tipo di, diciamo, amore incondizionato, perché purtroppo passa e si scende dalla cosiddetta nuvoletta rosa, io questa sensazione l'ho provata, quindi mi faccio psicanalizzare un po' anch'io in questo caso, è tremendo. Cioè, nel senso, si stava meglio quando si stava peggio, se così possiamo definire. Si stava meglio innamorati e non corrisposti che disinnamorati. Che la situazione del disinnamorato è tremenda. Sì, sì. Oddio, poi vedi, si stanno facendo delle cose che valgono per tutti, mentre invece in questo caso è possibilissimo che valga solo per me. Sì, quindi... sì, sì, questo bisogna dirlo, questo perché ci sono quelli che preferiscono niente piuttosto che un amore non corrisposto. Cioè, un amore non corrisposto per molte persone è distruttivo, è terribile, no? E ci sono quelli che invece preferiscono amare qualcuno senza essere amati piuttosto che non amare nessuno. Perché? Che cosa... cioè, qual è la caratteristica di questo tipo d'amore? La caratteristica di questo tipo d'amore è che è un amore basato sul desiderio, non sul bisogno. È un amore, cioè, che vive del desiderio dell'altro, non del bisogno che l'altro ti soddisfi i tuoi desideri. Per cui è come dire: ti amo vuol dire voglio farti felice. E questo volerti far felice è il mio modo di amare, per cui quando anche non lo sento più, io mi sento povero, mi sento impoverito, perché non ho più desiderio, non ho più il desiderio di te. Le persone che sono dominate dal bisogno, è ovvio che non provano questo, cioè non pensano che, certo, i desideri, anche se sono non soddisfacibili, siano una cosa di cui poter vivere, ma pensano che i desideri non soddisfacibili siano una fonte di felicità, di infelicità estrema. Edo ci manda un'altra suggestione. Grande, che vorrei sottoporti per capire se è un terzo tipo di amore oppure se fa parte di uno dei due precedenti. Nello stesso tempo dice: per chi ama, se ama davvero una persona e capisce che l'altra persona soffre nello stare con te, bisogna avere anche la maturità di lasciarla andare, se no diventa egoista. Se la si ama davvero, bisogna lasciare che sia felice, quello che dicevi poco fa. Io odio quando si dice la mia o il mio ragazzo, nessuno è proprietà di nessuno. Bravissimo, questo però è la vetta assoluta dell'amore, cioè di chi non solo vive del desiderio dell'altro e non gliene importa e non si aspetta niente, ma anche in grado di soffrire per l'altro, cioè di rinunciarvi. Questa è la vetta assoluta dell'amore umano. L'amore umano, non biologico, non personale, non romantico, è questo. È quando tu sei in grado di soffrire per amore. Cioè quando per amore, per non far soffrire un altro, preferisci soffrire tu. Beh, un po' romantico, eh. No, non è molto romantico. Non è molto romantico. Non è molto romantico. No. E quindi Francesca ride felice. Sì, bene. Sì, sì, perché mi piace questo argomento. Mi piace, credo che non si limiterà questa puntata, anche perché siamo all'inizio, quindi. E quindi tre tipi d'amore fondamentalmente. Ecco. No, rifacciamo la sintesi. Un amore biologico, un amore basato sul bisogno di soddisfare le proprie pulsioni. No? D'accordo? E che va verso l'altro quando l'altro si sa che soddisfa quelle pulsioni. Cioè, io ti amo perché mi dai questo, questo e questo. D'accordo? Un amore invece basato, questo tipo di amore è l'amore cosiddetto di attaccamento, no? Se uno ti fa star bene, ti ci attacchi. Vuol dire che vuoi stare con quello lì o con quella lì. Poi c'è un altro tipo di amore che non è basato sul sapere che l'altro ti soddisferà, ma quando lo incontri la prima volta, anche se non l'hai mai provato, tu sei certo che è quello lì. L'amore a prima vista, per esempio, è così, no? D'accordo? Il che vuol dire che tu, quando incontri l'altro, ci metti qualcosa di tuo nell'altro, come se riconoscessi qualcosa di tuo nell'altro, te lo porti dentro, lo fai diventare parte di te, e questo è un amore più di assimilazione, è come se tu l'altro te lo mangiassi, lo digerissi, no? Che è l'aspetto c'è un aspetto fondamentale. Cannibalesco. Per esempio, nel bacio, nel certo. bacio d'amore, c'è un aspetto fondamentale di questo. Il bacio è una incorporazione reciproca dei due amanti. No? Beh, sì. Beh, spesso poi si dice anche ti mangerei. Brava, bravo. Più del coito. Sì. Più del coito. Tant'è bravo, vero che tant'è vero che ci sono quelli che si lamentano perché vanno con le prostitute ma non possono baciarle. Possono fare tutto il resto, ma baciarle no. Posso aggiungere una specifica particolare? Che se parli sia con dei ragazzi, con delle ragazze, ma anche uomini o donne, e entri un po' in confidenza e si va alla domanda, diciamo così, un po' particolare. La prima volta, la famosissima prima volta, 9 su 10 hanno un ricordo o ridicolo o pessimo della prima volta. Io compreso, non me ne vergogno a dirlo. Se invece si parla del primo bacio, si illuminano gli occhi. Certo. Io compreso. Certo, certo, certo, bravo. Questo è un esempio. Questo è un esempio sì, molto, molto significativo di quello che dicevamo. Poi c'è l'altro, il terzo tipo di amore, che è quello che è basato sul desiderio e non sul bisogno. Tu incontri un altro e non è che prima lo conosci per vedere se ti può soddisfare e poi ti innamori, oppure lo ami a prima vista perché lo riconosci, ma incontri un altro e concepisci il desiderio di farlo felice, di far felice l'altro. Ci è arrivato anche un messaggio per WhatsApp. Ah. Ecco, e ci dà uno spunto interessante. Mi sono dilaniato il cuore in un amore non corrisposto per anni. Alla fine, col senno di poi, forse amavo di più struggermi d'amore che la persona stessa. Capita, mio caro. Bravo. Capita. Cioè, questo vuol dire che c'è un tipo d'amore che è caratterizzato dal fatto che tu non ami l'amato, ma ami l'amore. E quindi è un quarto tipo questo? No, è sempre il tipo, il terzo tipo. Come gli incontri. È una variante del terzo tipo d'amore. Cioè, quando tu quindi non lo personalizzi, tu ami quella persona, che è quello che ti consente, per esempio, di amare l'umanità. L'amore universale si basa proprio su questa possibilità. Tu, quando ami tutti gli uomini, ci sono quelli che amano l'umanità, no? D'accordo? Sentono un afflato nei confronti di tutta l'umanità. Dici, ma come? Tutti, brutti, belli, cinesi, ma come giapponesi. Poveri cinesi. No, dico cinesi, giapponesi, per dire. Arriva una telefonata, potrei dire chiamo da Pechino. Potrei dire italiani. potrei dire tutte. Sì. La risposta è perché io nell'amore, in qualunque amore, io sento e realizzo l'amore. Non è quell'amore lì, quella persona lì, quella storia lì, ma è l'amore che si incarna in quella persona lì, in quell'amore lì. Cosa che ti fa capire come mai le persone possono continuare ad amare chi non c'è più, chi se n'è andato, e nonostante questo non esserci nessuna concorrenza con un altro amore nuovo che hanno. Appunto, infatti, certo. Qua volevo arrivare, infatti. Non c'è concorrenza quando tu nell'amare una persona ami tutti, no? Per cui ne puoi amare tanti altri. Non è che se invece in quella persona ami quello, il posto è occupato. Mi piace il posto occupato. Stacchiamo? Vuoi fare un po' di musichina? Sì, guarda. Scegliela tu questa volta. Oh, Morrison, foto viva. Pensando in você, pensando no vazio che você deixou. Acordei e fiz una canção. 16.50 si rientra in diretta Radio Città Fujiko, oltre la crisi. La puntata ormai è a 10 minuti dalla conclusione. Come salutiamo i nostri ascoltatrici e i nostri ascoltatori? Ma io vorrei rilanciare per la prossima puntata, perché non è che, cioè, siamo appena entrati in tema, mi pare. Francesco, cosa ne pensi? Credo di sì. Ecco, perché tu hai elencato questi tipi di amore e io vorrei andare a vedere anche un po' più nel dettaglio vizi e virtù di questi tipi di amore. Cioè, che succede quando si vivono, esatto, e si realizzano nel bene e nel male. Che succede quando si rompono. Esatto. E anche come si possono vivere lo stesso tipo di direzionamento, come può essere, come dire, di norma, o meglio, ben calibrato, ecco, scusa, non... oppure quando è direzionato in maniera esagerata, quali storture può portare. Certo, no, ma possiamo cominciare col dire quali sono i principi fondamentali del funzionamento, cioè quando funzionano, perché funzionano, no? Sì, cominciamo col dirlo, tanto il tempo ce l'ha. Allora, un amore... Il tipo d'amore, quello che abbiamo chiamato amore biologico, basato sui bisogni, sull'attaccamento, l'amore di attaccamento, diciamo così, funziona quando funziona lo scambio, e va in crisi quando lo scambio non funziona più. Ovvero io ti amo perché mi dai questo e tu mi ami perché io in cambio ti do quest'altro. Quindi devono essere due soggetti che sono, come dire, sintonizzati, certo, sullo stesso tipo, certo, d'amore. Ecco, questo non l'abbiamo detto. Ecco. Questo non l'abbiamo detto. La forza o la debolezza di converso di un amore sta nella modo in cui i contraenti di quell'amore si legano. Se si legano allo stesso modo, quell'amore è più forte. Se si legano in due modi diversi, quell'amore è più fragile. E questo può capitare. Certo. A meno che non si legano in due modi diversi, ma complementari. Ah, mamma mia, è sempre più difficile dobbiamo fare. È sempre più difficile. Arriviamo a giugno con questo tema. Beh, per esempio, io, come dire, quando ti incontro, esco con te, ti provo, no? E tu ti accorgi che ti sto provando perché tu già sei innamorata di me a prima vista e ti ripugna il fatto che io ti stia provando. Già in questo si vede la diversità. Già in questo già comincia, non è detto, potrebbero poi incontrarsi lo stesso e lo stesso mettersi insieme quei due, però c'è già un elemento di fragilità. Se io quando ti incontro ti provo e tu mi provi, c'è un elemento di forza. Cioè, in definitiva, c'è una corrispondenza. Cosa intendi nel quando tipo... dici ti provo o mi provi? Intendo ti conosco. Mm. Ti conosco. Mentre invece nell'amore a prima vista non ho bisogno di conoscerti. Ah, giusto. Ti incontro e sei tu. In questo caso, cioè, dice. Capito. Come se quando si fa quella domanda, ma tu potresti dire che ami uno se anche ti è simpatico, ti suscita dei sentimenti, se prima non lo conosci? Ci sono persone che dicono no, assolutamente no. Se anche mi viene in mente, io mica. Quando è che glielo dici ti amo? Ci vuole un po'. Che fatica, anche quella cosa non l'accetterò mai. Ma perché bravo. La gente fa così? Bravo, perché tu sei. È più facile dare a uno del figlio di meretrice piuttosto che dirgli ti amo. E poi, ma no, ma cosa dici? Ma sei matto? Ma non Vabbè, si dice. Uno lo deve dire quando si sente, però, Non è una cosa che certo, va detta, che non discorsi, è. Però se uno, per me è un. Però, è se uno un modo se la, di però se uno se la sente. Sì, se se la sente, sì, però deve sentirsela, appunto. E non tutti se la sentono al primo approccio. Ma no, chiaro, vabbè, che... adesso sì, non esageriamo. No, al primo approccio. Quello che sa il colpo di fulmine se lo sente già dal primo momento di dirlo. Sarà perché... Quell'altro no. Ma quanti ce n'è che confessano che mai hanno detto a qualcuno ti amo? Ma mai nessuno gli ha detto ti amo. Ce ne sono, ci sono quelli che hanno un problema lì, certo. Perché appunto vorrebbero avere le pezze d'appoggio e le garanzie, intendo. Vorrebbero, ma ci sono quelli addirittura che fanno i test, Addirittura c'è una questa. C'è una testistica. Una no, testistica. Una testistica di questo. Allora dice: se mi apre lo sportello, io ci continuo a uscire. Se mi offre la cena, ci continuo a uscire. Se non mi apre lo sportello e non mi offre la cena, io non ci continuo a uscire. Hai capito? No, dai. Eh sì, sì. sì. Anche sì, uomini, sì, sì. Uomini che dicono: se questa donna non mi offre la cena. No, quelli sono esempi che si riferiscono più alle donne. Grazie. Dal punto di vista del maschio, invece, ci sono altri test. Non vogliamo saperli perché siamo in orario protetto. Ma ci sono niente anche test che si possono dire in orario protetto. Ci sono anche test, come dire, che appartengono alla cultura. Quando ero ragazzo io in Sicilia, no? C'era questa usanza. La fidanzata, prima di fidanzarsi in casa, la suocera la provava, le faceva il test. E il test era che doveva cucinare il pesce e non lasciare la puzza di pesce nel tegame. Porca. Se cucinava il pesce e lasciava la puzza di pesce nel tegame, non era una brava massaia e il figlio veniva sconsigliato di fidanzarsi in casa. Hai capito? Questa è fantastica. Quindi, poi Francesca... però dopo fuori, adesso quando andiamo a mangiare, mi racconti come si fa a cucinare il pesce. Esatto. Senza lasciare l'odore di pesce nella Ma perché c'è tutta un'arte. Immagino. Si usa il limone, c'è tutta un'arte. Immagino. Ma andiamo fuori tema. Ah, e quindi io direi che a questo punto possiamo salutare Francesco, ringraziarlo. Sono io che vi saluto. Ci toccherà continuare certo, l'amore non ci lascia. Su che cos'è l'amore? Un po' difficile. E su come continuerà. Quindi to be continued, come appare nei film americani. Noi rimandiamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici alla prossima puntata, mercoledì prossimo. E gli rinnoviamo l'invito a collaborare con noi in e questa ricerca. E non possiamo ricerca. Però dire che li amiamo. Li amiamo, meno male, li amiamo molto, soprattutto se ci aiutano a condurre questa trasmissione. Perché appunto, avendo parlato di io dico se ci aiutano a continuare ad amarli anche, certo. anche. Certo. Perché dicevo, essendo appunto coinvolta molto anche la soggettività, gli esempi personali, le esperienze sono non solo personali, ben accetti, ma fondamentali. Bravissimo, perfetto, era questo che volevo dire. E beh, chiudiamo. Grazie. Così, perfettamente. Ciao. Volemo se bene. Chiudiamo. Ciao a tutti. Oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione.